Per cominciare questa nuova parte del programma che abbiamo iniziato stamattina, vi presento per primo Giorgio Cesari, che è segretario generale dell'autorità del bacino del Tevere, che ci darà una comunicazione sulla navigabilità del Tevere oggi. Un attimo prima di dargli la parola, voglio annunciare una piccola modifica che Madame Alom dell'IREMAM, che doveva presentarci una comunicazione sul Nilo e il mare, non ha potuto prendere l'aereo per problemi che tutti gli stranieri conoscono, cioè l'incendio, eccetera, e che ci sarà questa comunicazione in meno, così avremo un po' più tempo per le domande. Bene, allora a lei, grazie. Allora, ecco perché abbiamo potuto pranzare con maggiore tranquillità. Allora, buongiorno, grazie per l'invito. E compito, diciamo, non tanto arduo nella spiegazione quanto nel sperare di coinvolgere la vostra cortese attenzione. È un editore internazionale e quindi cercherò di essere soprattutto aiutato dalle immagini. Quello che vedete è un'immagine in un palazzo di Roma, è un'opera appunto di Pasquale, Fra le due guerre, e rappresenta un'ipotesi di Roma come poteva essere nel Quaternario, un mondo chiaramente cambiato, un mondo che però ha fatto una grossa evoluzione rispetto a questi primi uomini ominidi, proprio utilizzando il fiume come sistema di navigazione. Il problema, certamente il Tevere è un fiume che vive, che respira, un fiume che non è inerte e che quindi ha avuto una storia anche nella costruzione soprattutto della sua foce, dello sbocco al mare, piuttosto importante, storicamente documentata. Qui ci sono alcune immagini del periodo preimperiale, del periodo imperiale e così via, dove si vede come il fiume lentamente abbia colonizzato una parte del mare. Non siamo in Olanda assolutamente, ma certamente c'è stato un guadagno di territorio, e questo territorio però ha finito poi per rendere disponibili aree che in parte sono poi confluite nella bonifica delle paludi. Chi conosce, come tutti voi credo, l'aeroporto di Fiumicino sa che siamo in una zona bonificata fra le due guerre, e fino ad arrivare viceversa purtroppo a dei grandi insediamenti soprattutto abusivi alla foce del fiume. Problema certamente molto grosso, importante, deleterio per la vita del fiume è il trasporto solido. Trasporto solido, come in tante situazioni non solo italiane, assolutamente mondiali, certamente è fortemente compromesso, modificato, usate il termine più appropriato, per quanto riguarda gli sbarramenti e quindi tutte le strutture trasversali che impediscono il trasporto naturale del materiale. E si vede da questo studio, che arriva purtroppo solo al 1990, ma di un mio maestro, il professor Margaritora, come dal 1930 in milioni di tonnellate, chiaramente pur se con alti e bassi, no, con valori di picco positivi o negativi, si sia arrivati a delle stabilizzazioni estremamente modeste, neanche dell'ordine o appena dell'ordine di un milione di tonnellate. Certamente gli invasi artificiali sono fondamentali. L'unica maniera che abbiamo per poter proteggere Roma con un sistema di previsione, di allertamento e di controllo proprio degli strumenti di scarico è la diga di Corbara. La diga di Corbara è una grossa diga, almeno per le dimensioni italiane e europee, sopra a Monte di Orte, ed è lo strumento che permette di, in qualche maniera, di, diciamo, modificare, più che invasare la piena, soprattutto di modificare la creazione del picco e quindi quello che avviene poi a Roma, considerando anche gli effetti degli altri affluenti che non sono regolati da dighe. Un piccolo passo sulla legislazione, perché la navigabilità del Tevere parte da molto lontano, però indubbiamente rientra in una legislazione di bacino. Permettetemi, senza togliere nulla agli altri colleghi, comunque un vanto anche dell'Italia, assolutamente non solo dell'Italia, ma la pianificazione della Squenca in Spagna, o l'Agence du Bassin della Francia, o le autorità di bacino, sono il frutto di un percorso molte volte di sofferenza. Non dimentichiamoci che la 183 è nata dopo l'alluvione di Firenze, dopo lo studio della Commissione De Marchi, e quindi quando si è voluto usare come unità di giudizio, di decisione, il bacino e non più il confine amministrativo, regionale o provinciale. A questo sono seguiti altri decreti, uno piuttosto drammaticamente importante, quello della Sarno, che ha corrisposto poi anche all'attivazione di piani di assetto idrogeologico per arrivare a una, diciamo, studio e analisi di gestione dei bacini attraverso l'autorità di bacino, che adesso, attraverso la direttiva quadro, anche se dall'Italia recepita con molto ritardo, lentamente dovrebbero, anzi direi si stanno trasformando in distretti. E questo è il percorso dal bacino del Tevere, che è un bacino veramente molto piccolo per molti esempi europei, stiamo parlando certamente di 17.000 km quadrati, passiamo a un distretto del doppio, più o meno di dimensioni, non certamente di popolazione perché Roma è l'elemento fondamentale, distretto dell'Appennino centrale, che è stato non facile spiegare alla Commissione europea, che vedeva più una, diciamo, definizione dei distretti secondo lo sbocco dei fiumi, quindi pensate un Adriatico, un Tirrenico. Invece abbiamo fatto presente che in particolare per questo bacino c'è un grande elemento di identità, la risorsa sotterranea, cioè quella grande risorsa del carbonatico che permette a Roma di essere alimentata, unica capitale al mondo, con acque di sorgente, quella che bevete è acqua di sorgente, e che chiaramente non conosce, essendo un'acqua sotterranea, se deve andare a destra o a sinistra, se deve andare in un fiume o in un altro. Quindi l'identità del distretto è certamente molto collegata a questa enorme riserva del massiccio carbonatico. Nel distretto noi abbiamo indicato due grandi obiettivi che andavano a collimare con due obiettivi di interesse nazionale. Uno, lo schema della rete idrica nazionale, già prevista dall'articolo 88 del decreto 112, non direi assolutamente ancora attuato, ma significa un collegamento importante della rete idrica nord-sud, e la navigabilità del Tevere, questo elemento centrale che qui riteniamo e cui diamo una grande importanza, ma che già qualche nonno, non qualche padre, aveva già pensato, poiché parliamo di un decreto ben del 1917. Quali sono i fattori del distretto? Fattori importanti, non sono unici per il distretto dell'Appennino centrale, ma certamente sono molte volte un riflesso di una situazione che si ripete ampiamente in tante parti d'Italia. Certamente c'è un problema di governance globale tra amministrazioni diverse, ci sono diversità, pressioni, la presenza di un grosso bersaglio, come si chiama in gergo idraulico, che è la città di Roma alla foce del Tevere, città di Roma che, senza togliere nulla alle altre capitali, se anche vola un gabbiano risalta in tutti i quotidiani del mondo, una modesta superficie pianeggiante, e poi delle politiche trasversali e dei cambiamenti climatici che hanno da aggiungere, in disparte da quella che sia l'origine e il loro possibile contenimento, un fattore di indecisione proprio nelle decisioni, perdonatemi il bisticcio di parole, che invece si devono e si vogliono assumere. Commercio in età di romana, parliamo del Tevere, e quindi cito questo esempio di un paese a molti forse ignoto, Scoppieto, vicino a Civitella del Lago, dove da sempre esisteva un commercio, dove sono stati trovati reperti di ceramica che era importata ed esportata verso tutte le fonti mediterranee attraverso proprio il percorso di navigazione. Quindi questo è un esempio come all'interno, e non soltanto sulla città di Roma, si trovino questi reperti e quindi queste testimonianze vive di commercio sul fiume. Poi andiamo alla portualità. Il porto dell'Emporio è un porto non ormai ben ridotto, anzi abbandonato da lungo tempo, però era, diciamo, un porto classico, importantissimo per Roma. Non dimentichiamoci che la Roma imperiale, la Roma non dico addirittura quadrata dell'epoca repubblicana, ma la Roma imperiale, e quindi diciamo fino ad arrivare anche all'inizio del Medioevo, era una Roma essenzialmente concentrata se fossimo a Parigi diremmo la Rive Gauche, no? Sulla parte sinistra dove si è sviluppata la città, e soltanto l'avvicinamento sulla riva destra, al di là del mausoleo e quindi oggi Castel Sant'Angelo, poi si è sviluppata con Trastevere, si è sviluppata chiaramente prima con la città del Vaticano, quindi c'è stata un'invasione della riva destra. Però il porto dell'Emporio aveva questa grande importanza, c'era un problema, diciamo, di arrivo e di merci che venivano poi gestite, chiaramente non c'era più la possibilità per il fondale, anche perché ricordiamoci che poi i mezzi di trasporto erano qualche volta anche diciamo movimentati dalla forza animale, da buoi proprio che trainavano le imbarcazioni. Il porto di Ripa Grande e il Ripa Romea diciamo è stato costruito proprio per favorire il traffico per il pellegrinaggio verso la Santa Sede, verso il Vaticano. Era il porto cosiddetto di Ripa in assoluto, e fu ricostruito poi un po' più a monte nel 1642. Era un porto che godeva anche di esenzioni doganali, quindi aveva chiaramente delle facilitazioni, e su questo è stato però un porto molto importante, dal quale, non esattamente la raccolzione attuale, però sono anche partite delle navi importanti. Basta ricordare la battaglia di Lepanto e la flotta guidata da Marcantonio Colonna, la flotta papale, che si andrò a ricongiungere a Messina con la flotta non di Giovanni d'Austria, bensì affittata da Giovanni d'Austria alla Repubblica di Genova, quella veneziana, e poi ci fu la battaglia di Lepanto. Non è resto per fare un revanchismo storico, però c'è una storia anche della città di Roma. Chi di voi conosce il Palazzo Colonna, se non l'avesse fatto, lo vada a visitare, c'è questo enorme affresco sulla volta, di tutta dedicata al trionfo di Marcantonio Colonna, che è una cosa, devo dire, impressionante. Poi c'è il porto di Ripetta, il porto cui siamo come romani nati o di adozione come il sottoscritto più vicini, è il porto che ha caratterizzato dal 1700, quindi per gli ultimi due secoli, poi con la fine dell'Ottocento sono arrivati i muraglioni, ma la vita romana era un porto dove addirittura diciamo si facevano non soltanto attività di navigazione commerciali, ma si assisteva all'epoca anche agli omicidi, a quelli che venivano gettati nel fiume, perché c'era chiaramente una vita molto anche collegata a quello che sono tutte quante le vicende quindi socio-economiche del posto. Però importante è che è rimasto il porto di Ripetta, ormai scomparso, nascosto dietro i muraglioni, ma ancora presente se si scavasse, però un certo gradino del porto di Ripetta è stato preso come livello per la misura delle piene nel Tevere, e quindi da il famoso idrometrogo, dico famoso perché lavora da tanti anni, vede che le piene sono di tipo ordinario se l'altezza del fiume arriva fra 10 e 13 metri, straordinarie oltre i 13 metri, e dai 16 metri in su diventano eccezionali, con tutte le considerazioni che possono derivare. I natanti, per gli aspetti diciamo organizzativi, ci sarebbe una classifica di natanti, qui ve l'ho ripetuta, magari è stata anche ulteriormente, può essere stata aggiornata, quindi vi chiedo scusa, dove sono previste, a secondo delle classi delle vie navigabili, ovviamente un'impronta molto europea, di grandi corsi d'acqua perenni, di grandi fiumi, con tonnellaggio immersione. Certamente per il Tevere si sta parlando di una classe zero, non si può scendere sotto l'1 se non con lo 0, dove appunto ci siano, l'abbiamo indicato in basso, tonnellaggi molto contenuti, immersioni molto ridotte, larghezze anche contenute e lunghezze altrettanto contenute. Vedete, rispetto anche alla prima classe stiamo parlando di valori qualche volta addirittura della metà rispetto alla classe più bassa. Le prospettive dello sviluppo socio-economico. Abbiamo lanciato un'idea, poi per tante questioni, diciamo tutte le idee possono essere apprezzate ma non trovano poi magari riscontro nel finanziamento, ed era quello di creare un sistema di collegamento, possiamo chiamare interportuale più che intermodale, che facesse riferimento alle grandi portualità, grandi per l'Italia ovviamente, l'Adriatico, Ancona e Civitavecchia del Tirreno, al sistema ferroviario, al sistema autostradale, al sistema delle interconnessioni di mobilità trasversale dell'Italia, per individuare tra Orte e Monte Rotondo, cioè il Tevere diciamo pre-romano, chiamiamolo così, dove ancora si può arrivare, un sistema di proprio nodi intermodali, di hub, non per sostituire un traffico esistente, quanto per istituire un nuovo traffico proprio su elementi intermodali e diciamo favorire quindi anche uno sviluppo, ma assolutamente compatibile, un canale navigabile. Canale navigabile che chiaramente trovava però anche degli altri sviluppi, come in particolare nel tratto tirrenico la possibilità di portare sia da Civitavecchia sia da Gaeta, attraverso delle opportune, non dico chiatte, ma certamente delle imbarcazioni di opportune dimensioni, le merci nella città di Roma. In questo, liberando dal traffico le strade consolari, sia l'autostrada Civitavecchia-Roma, sia la strada Pontina, con grandi anche risparmi da un punto di vista dei carburanti e, se mi perdonate, anche da un punto di vista della riduzione delle emissioni di CO2. Il turismo nel Lazio, chiaramente con un magnete che è Roma, dove il turista viene e in 3 giorni, 2, forse 1, vuole vedere tutto, l'idea che possa essere attenzionato per visitare le bellezze del Tevere non è facile. Come si dice, c'è troppa materiale da vedere. Però lungo il Tevere, in particolare nel tratto laziale fino a Orte, che è meandriforme, che è pieno di scorci, che è pieno di visuali diverse, di paesaggi, di borghi, di castelli, certamente questo, un turismo non troppo frettoloso, avrebbe una possibilità di una veramente nuova, direi quasi linfa, no? Da un punto di vista proprio dell'attuazione di un turismo diverso, che certamente non sia quello della settimana all inclusive per l'Europa. In questo ci sarebbe poi il collegamento non soltanto anche con il tratto fluviale, ma anche con laghi esistenti, sia quelli più artificiali del versante abruzzese, sia quelli naturali. Qui abbiamo una copiosa documentazione di laghi sul bacino del Tevere, abbiamo il lago Laminare, il lago vulcanico, il lago tettonico, il lago artificiale, abbiamo il lago Perfrana, cioè abbiamo praticamente quasi tutte, ci manca soltanto quello di Morena, insomma quello glaciale, se non forse un piccolissimo esempio nell'Abruzzo, e quindi anche questa è un'ulteriore cosa. Le prospettive di sviluppo della città di Roma sono importanti perché a Roma ci sono sempre anche eventi, non dico quotidiani, ma pensate, l'8 dicembre incomincia anche uno giubileo straordinario, quindi il giubileo non è più ogni 25 anni, ma molte volte ormai è ogni 10 anni. Abbiamo una possibilità, come tanti altri paesi, di avere eventi anche importanti, che possano essere Olimpiadi o altre situazioni, che giustificherebbero effettivamente un approccio con il fiume molto più vivo. Ora, un problema che a Roma abbiamo vissuto è quello di un'appropriazione sociale della risorsa fiume, un'appropriazione della popolazione che tenda a non passare sul ponte dimenticandosi che sta attraversando un fiume, ma che lo viva. E non è certamente solo l'estate romana quello che lo fa. Un esempio di aggregazione spontanea, lo citiamo sempre, quello di Ponte Milvio, dove si sono raggruppati i giovani e che in fin dei conti hanno una condivisione, anche se chiaramente abbastanza parziale, con il fiume. Dobbiamo sviluppare quello insieme a un altro sistema di mobilità dolce e di altre attrazioni che possano aiutare quello che è il sistema della navigazione, che nel tratto romano non può chiaramente che essere o per uso sportivo o ludico, stante la presenza di piccoli sbarramenti di soglie, oltre che dell'isola Tiberina. In questo però abbiamo, unica città in Italia, un piano stralcio specifico dell'area metropolitana, del piano di autorità di bacino, che è quindi un piano non soltanto di vincolo, ma è anche un piano che prevede quello che è il contenimento, diciamo dal punto di vista della antropizzazione dei corsi d'acqua, la diciamo naturalizzazione, i corridoi ambientali e quindi il mantenimento per quanto possibile di quello che è un'ecologia assolutamente preesistente nella città. Questo è il sistema invece di navigazione messo in pendenze. Abbiamo un sistema è divisibile, lasciamo stare la parte del mare, che è la più fattibile, potrebbe partire domani realmente. Abbiamo, e così la parte romana, la possiamo dividere in, diciamo, 3 tratti. Il tratto che va fino a Orte, poi con la diga di Corbara c'è una normale interruzione, una ormai non più naturale, ma artificiale interruzione. Il tratto, diciamo, che sarà tutto l'Umbria, e il tratto più umbro-toscano. Su quest'ultimo le pendenze e il fiume e la portata, i livelli non garantirebbero una grande possibilità. Sul tratto invece esistente tra Orte e Castel Giubileo, grazie all'apporto del Nera, che è un torrente, quello che dà l'acqua sempre perenne a Roma, sono acque sorgentizie, a Roma si dice il Paglia, la Bagna, il Nera, la Fabera, la città, perché è sempre acqua e quindi non avrebbe bisogno di un sostentamento di altre fonti, mentre nel tratto umbro dovrebbe avere un sostentamento di diciamo fonti artificiali che potrebbero essere soprattutto la diga di Montedoglio e la diga del Chiascio, entrambe distenti anche se un qualche problema di tipo strutturale appena costruito ovviamente. Quello che il problema è da vedere è che chiaramente nel Tevere, come in tutti gli altri fiumi, bisogna cambiare mentalità. Non è una questione di portate, è una questione di livello. Anche se come idraulico mi viene spontaneo dire che solo portata, non è vero. Qualsiasi cosa funziona per i livelli. Anche le piene di Roma si misurano, ve l'ho detto prima, in metri, non in metri cubi al secondo. Perché ci sono stati casi di piena proprio collegati ad innalzamento del livello che non necessariamente erano collegate all'innalzamento delle portate. Questa invece è la parte, diciamo, dipendenza. Vedete come giustificavo prima che le pendenze sono tali che rendono veramente difficoltoso il sistema di navigabilità nel tratto da Toscano-Umbrio, rendono con qualche difficoltà nel tratto umbro, e le pendenze sono certamente favorevoli al di là di quello che è l'afflusso e la possibilità del mantenimento di livelli nel tratto invece laziale. Opere da realizzare molto semplici, porte vinciane, scala ovviamente per i pesci, rinaturalizzazione del fiume. Noi abbiamo anche lanciato il concetto dell'ecobonus. L'ecobonus è stato uno strumento europeo molto apprezzabile per sostituire il trasporto via strada con via gomma con quello marittimo, applicato soprattutto alla rete autostradale mediterranea. Noi avremmo voluto anche applicarlo in questo caso sul Tevere, poi per fortuna, sto scherzando, l'ecobonus è stato cancellato dall'Unione Europea. E in questo caso però l'ecobonus, non andando a sostituire un trasporto su gomma, ma andando a creare un nuovo tipo di trasporto fluviale, avrebbe potuto rappresentare un fondo non per ripagare i trasportatori, quanto per rinaturalizzare il fiume per quanto possibile. In questo crediamo che possano essere di grande aiuto i contratti territoriali. Noi li chiamiamo contratti territoriali, molte volte sono più conosciuti come contratti di fiume, ma è un'espressione un po' imprecisa, perché sono contratti di paesaggio, di falda, di lago, di costa, di montagna, di fiume e così via. Ci vuole un collegamento privato-pubblico. Un esempio concreto, ci siamo permessi di lanciarlo su Roma, come contratto dell'area romana, la sfida è stata raccolta e adesso anche a livello di pubblico e anche direi di privato incominciamo a vedere dei timidi passi. E riteniamo questo sia importante. D'altra parte non dimentichiamoci che i contratti territoriali sono richiamati dalla direttiva, come dalla direttiva sia quadro sia dalla direttiva alluvioni, come uno strumento attuativo proprio della pianificazione di distretto. Quindi non è uno scherzo, un abbellimento, un modo di giocare con le organizzazioni di volontariato, eccetera. È una maniera seria di rappresentare la risposta in chiave chiaramente compartecipata, consensuale, condivisa alle istanze della pianificazione di bacino, sia per la gestione del corpo idrico, sia per la gestione del rischio alluvioni. Le ultime cose vi tedio con alcune fotografie che ho comprato domenica scorsa, per cui sono stato fortunato. Si vede un tratto del Tevere, questa è una foto, tutte foto fra le due guerre. Vedete come le barche riempivano il fiume, e c'è anche una curiosità per i romani, che si vede tra Castel Sant'Angelo e il ponte Vittorio Emanuele, un'arcata di un ponte in ferro che esisteva, che portava alla mole dei fiorentini, che è stata bombardata con la dinamite o scoppiata, quindi non esiste più. Un'altra volta importante è questa, il ponte Regina Margherita durante un'alluvione. Qui c'è un errore storico, o un falso storico, perché è stata corretta appena la piena del 1923, ma la cartolina, vi assicuro dal retro, riporta il 1907 come spedizione, per cui è spedita a una persona della Savoia. Tutte queste cartoline erano mandate a persone della Savoia, scritte anche in francese. E vedete, a parte la piena, come c'era una presenza cospicua in parte di imbarcazioni, in parte di natanti. Stiamo parlando in un momento in cui c'era una grossa anche utilizzazione non solo di navigabilità del fiume ancora all'epoca, ma anche di uso ludico del fiume. Quelli che si vedono appena sopra il ponte erano probabilmente delle zone balneari dove appunto si andava a prendere chiaramente una bella stagione il sole, per non parlare come tra le due guerre si svilupparono nelle zone che erano rimaste con tratti di sabbia, i cosiddetti polverini, delle tribù di pelle rossa. Non mi prendete per matto, ci sono delle fotografie molto interessanti, un'altra volta ve le farò vedere se volete, dove c'erano questi raggruppamenti di persone che si vedevano per prendere il sole, pelle rossa perché tutti maschi rigidamente chiaramente prendevano il sole, e da cui in uno di questi nacque una parola molto abusata che è la tinterella, a Tintarella fu il nome dato a una di queste tribù di pelle rossa da un giornalista ed è rimasto, è una curiosità che forse non tutti hanno. E infine, per rimanere non nel fiume navigabile, ma nel fiume con patrimonio dell'umanità, questa, vedete che è una scritta in francese, scritta mandata sempre a questa signora della Savoia, è lo sbocco del Tevere nella cloaca massima. Questo importante reperto, ormai chiaramente non più funzionante perché scarica in un collettore, non scarica più nel fiume, ma che rappresenta un altro esempio e su cui appunto quella direttrice, anche io le ripetevo, sarebbe bello, no, se riuscissimo anche a costruire a livello internazionale, io ho messo Parigi, mi farebbe piacere chiaramente anche avere di altri paesi, la Spagna, la Grecia, chi è presente, un bel progetto internazionale, non tanto sul recupero, ma sulla valorizzazione di questi grandi sistemi fognari. In particolare la cloaca massima risale ai tempi dei Tarquini, quindi stiamo parlando di oltre, anzi quasi di 3.000 anni fa, e quindi di conseguenza diciamo c'è una storia che altri possono avere un po' più breve, ma che meriterebbe l'attenzione. Chiudo con questa foto per far vedere come il fiume era navigabile anche in maniera quotidiana. Questo è un classico esempio di pranzo acquatico che era fatto quotidianamente, si metteva una tavola, si metteva il pranzo, il vino e le persone, di cui quello con il cappello si chiamava Testa Lucente ed era uno dei capi delle tribù dei Pelle Rossa, e che facevano il pranzo acquatico con a fianco, vedete, il barcone. Quindi non confondiamo la navigabilità soltanto con il remo, può essere anche una navigabilità come un uso sportivo, ludico e ricreativo, che certamente adesso non è più plausibile, con 500 euro si va in una meravigliosa isola straniera all inclusive, ma che certamente rappresenta una storia della città. Grazie. Perfetto, grazie mille a lei per questa ricchissima comunicazione e che ci ha dato una visione d'insieme delle problematiche attuali e più che le problematiche anche i progetti, le prospettive attuali, e veramente ci ha fatto un po' sognare all'idea di raggiungere l'Adriatico con la barca, cioè esagero, di rifare il bagno con... nel Tevere, insomma, lo fanno il bagno, eh? Vabbè, insomma, insomma, senza rischio per la salute, no. E comunque e penso che ci saranno molte domande anche sulla, non so, forse sullo stato di avanzamento di tutti questi progetti, perché ce li ha presentati, ma qualcosa ha cominciato? Allora, vabbè, se parliamo del contratto territoriale dell'area romana, sì, è iniziato, siamo a livello di osservatorio di tipo istituzionale, siamo a livello di forum per una richiesta di iniziative, di idee, ci sono già contatti anche con privati e, come ho detto in maniera chiara fin dall'inizio, non sarà mai che si fa un contratto territoriale per fare il nuovo stadio della Roma, non c'entra niente, deve essere un qualche cosa che abbia un risvolto chiaramente con il fiume. Per quanto riguarda la navigabilità, la parte fluviale marittima è di grande interesse, esistono alcuni problemi, tra cui l'ho accennato prima, ma ogni volta che ne parlo è una ferita dolorosa, quella dell'abusivismo alla foce, dove esistono sulla riva destra e sulla riva sinistra due insediamenti abusivi che devono essere da anni delocalizzati. Uno è famoso perché l'idroscalo era anche un reperto storico e fu trovato morto, non voglio esprimermi, un certo poeta, no? Un certo regista, ve lo ricorderete, Pasolini, dall'altra parte un insediamento abusivo, sì che è semplice, è tollerato, e quindi chiaramente quello è un primo problema. Un altro problema chiaramente è poi una presenza di cantieri, chiamiamoli navali, di imbarcazioni lungo le sponde, che arrivano a 3-4 file, anche lì c'è bisogno di una regolamentazione da parte della regione, e poi bisogna individuare un'area portuale, che potrebbe essere o la Fiera di Roma o, a mio giudizio, anche l'area di San Paolo o l'Euro, perché ricordiamoci che il primo porto era stato ideato a San Paolo. Grazie. Bon, domande? Abbiamo visto e avevo già visto anche il film che è stato proiettato al Campidoglio a fine febbraio, quest'uso del fiume, la gente che nuota, che mangia anche nel fiume, ma senza scherzare, adesso l'inquinamento non lo consentirebbe, oppure il Tevere non è così inquinato che lo pensiamo? La nostra direttrice apre un tema in cui vi chiedo l'attenzione per le prossime 3 ore e poi dopo ce l'andiamo. Allora, se parliamo di inquinamento nel senso un po' canonico, cui noi siamo abituati, no? C'è un po' un problema di ossigeno disciolto, no? Di presenza di inquinanti specifici chimici. Il problema da un punto di vista dell'inquinamento, soprattutto urbano, di Roma è stato risolto. Ormai la parte non collettata e non trattata di Roma è di poche migliaia di abitanti equivalenti. Fino a molti anni fa erano 400.000 abitanti, ormai sono stati tutti collettati. Quindi il problema non c'è. Esistono testimonianze, ve le posso portare, di barcaroli che fanno continuamente il bagno ogni anno e gente che si ricorda che quando era giovane, adesso non lo fanno più, quando aveva sete andava al centro del fiume e beveva. Le foto non permettono di essere esposte. Sul fiume si sono svolte l'allenamento delle Olimpiadi di Atene, ci sono stati record di nuoto in continuo per 100 e 120 chilometri, quindi c'è una tradizione di nuoto che si è mantenuto, non più a quei livelli, ma attualmente non ci sono più stati morti nel fiume per possibili forme di infezione, e anche l'unica che si citava negli anni 70 di un regista per leptospirosi, un amico mi ha testimoniato che poiché era lì e lo salvò, fu in effetti invece un colpo proprio al cuore. Quindi questo problema non esiste. Qual è il problema grosso? Se intendiamo invece a livello di direttiva europea la qualità del corpo idrico secondo i parametri che sono stati definiti nella direttiva quadra, allora il problema cambia per moltissimi corpi idrici, non solo italiani ma anche europei, e quindi certamente dobbiamo considerare anche per i muraglioni, anche per tante altre situazioni, il Tevere come corpo diciamo fortemente idrico, fortemente modificato. Questo cosa significa? La qualità dello stato buono non c'è perché è fortemente modificato, che poi significa che sia un'acqua non pericolosa, senz'altro, se dovessi cadere nel fiume non mi preoccuperei, eviterei magari di berla, ma questo vuol dire che io non bevo neanche l'acqua del mare, vuol dire, quindi insomma, non sarebbe una cosa impressionante. Ricordiamoci che Mr. Ok, il famoso Mr. Ok, quello che faceva il tuffo ogni anno e che è stato dopo ripreso al primo dell'anno, non so se tutti lo sanno, era un belga che iniziò a fare i bagni, i tuffi nella Senna per curarsi le febbre spagnole. Così inquinava pure la Senna. Può darsi. D'autres domandes? D'autres questions? Una domanda molto semplice, ma il tratto che va appunto dalla foce alla città, che è il tratto che lei diceva sarebbe molto semplice attivare un tipo di navigabilità e di trasporto pubblico, che cosa implicherebbe e quanto è fattibile di realizzarlo anche in tempi molto brevi? Allora, tempo molto breve è definire un trasbordo delle merci da Civitavecchia e da Gaeta direttamente sulle queste nuove imbarcazioni che dovrebbero essere in grado di affrontare un tratto di mare, ovviamente, e poi un corso fluviale. No, dicevo, imbarcazioni di questo genere esistevano a Roma, erano le navi Scaudi Carriai. Sì, sì, no, esistevano, e anche vi dico di più che una nave da guerra, il granatiere, risalì il Tevere fra le due guerre, ovviamente era un'epoca molto vigorosa dal punto di vista bellico, no? Per ricevere la bandiera da guerra al porto di Ripa. Quindi se pensiamo, certo all'epoca non c'era la diga di Corbara, quindi erano diverse chiaramente anche i livelli del fiume, le influenze del fiume, però per dirvi come questo, poi si arenò un paio di volte questa nave, però era una nave da guerra, c'erano dei tonnellaggi, ci sono delle fotografie, delle resoconti di cronaca, ma ripeto, parlare solo della navigabilità, veramente soltanto a livello di figure, di fotografie, ce ne sono centinaia, dove sono dei tonnellaggi spaventosi che arrivavano sul Tevere. Ora, noi non pensiamo che possa arrivare a Roma, escluderemmo anche un turismo da Civitavecchia, nonostante quello che sono i propositi di altri, perché un turista che arriva a Civitavecchia o la nave da crociera ha 7 ore per vedere Roma, e questo già sarebbe discutibile, e ne perde 3 all'andata e 3 al ritorno sulla nave, non può essere soddisfatto. Mentre la merce, che chiaramente non sente molto questo fattore tempo, avrebbe una sua grande ragione, soprattutto, ripeto, liberando il traffico su gomma. Voi sapete che il risparmio tra traffico su gomma e traffico su mare siamo a livello almeno di una 100 come costo, per non parlare poi di quello che significa in termini di risposta all'ambiente, non emissione di CO2 e così via. Tutto quello che dice è bellissimo, perché è esattamente quello che succedeva nell'antichità, insomma, la differenza tra trasporto per mare e trasporto via per terra E in effetti l'idea di rimettere il porto di Roma a Civitavecchia ci piace molto, come archeologi. Non dobbiamo dimenticare che fino alla metà del Novecento c'era il porto di cui vediamo ancora i gasometri, c'era i magazzini generali e le navi risalivano, navi di commercio. Risalivano fino a Ripa, fino addirittura a Ripetta, e l'ultimo battello che partì da Roma per un collegamento che era, non dico quotidiano, adesso non mi ricordo, ma almeno settimanale, a Perugia, partì nel 1907, se mi ricordo bene. Quindi il problema è sempre stato vissuto come navigabilità. Poi c'è un dato di fatto, saranno i cambiamenti climatici, sarete quello che volete, il bacino, il distretto ha perso 2 miliardi di metri cubi d'acqua negli ultimi 50 anni. In più le dighe hanno chiaramente creato delle riserve di acqua, ma hanno anche chiaramente ridotto le fluenze, oltre che il trasporto solido, quindi c'è stato un certo sconvolgimento. Questo non è un fattore italiano, è un fattore mondiale, lo sappiamo, il progresso vuole le sue vittime. E quindi in quello c'è stata un po' la navigabilità anche del Tevere. Tutto cambia anche recentemente. Io quando sono venuto a vivere a Roma dalla Puglia, non c'erano... tutti questi uccelli che vagavano nel cielo di Roma, a cominciare dai gabbiani. Quando sono venuto a Roma i gabbiani stavano solamente sul mare, invece adesso non ci sono solamente i gabbiani ma anche i parrucchetti, i papagalli, che ormai prima stavano nella zona dell'Appia Antica, adesso stanno un po' dappertutto. Quindi voglio dire, non so se sono i cambiamenti climatici oppure le abitudini della popolazione, ma ci troviamo di fronte a questi cambiamenti, diciamo, non solo fisici, ma anche biologici. Non possiamo altro che assistere e cercare di capire perché avvengono e cercare di difenderci da certi eccessi. Est-ce qu'il y a encore une question? Ah, Evelyne? Una precisione per completare la domanda della collega su quel progetto di navigabilità: che cosa è previsto come zone di stoccaggio urbano, sempre la zona intorno a gasometro eccetera, nel progetto, nella pensata? Adesso si stanno organizzando dunque delle barche, quelle fluvio marittime, però come luogo così di scarico nella città, che cosa lei pensa come ideale, perché comunque sarebbe sviluppare tutta una dinamica urbana nuova o di recupero, perché l'idea sarebbe che tante merci potrebbero arrivare direttamente nella città risparmiando appunto il consumo del gasolio eccetera. E dove esattamente? Allora, nella città, proprio nel tratto urbano, no, perché il tratto urbano significherebbe creare degli ulteriori punti di approdo, dei punti di stazionamento di galleggianti, e quello è una cosa molto delicata, perché in caso di piena il distacco di un galleggiante si è visto che effetto ha fatto nel 2008, per cui, data anche la dimensione proprio molto stretta, chiamiamola così, della sezione del Tevere, questo sarebbe non auspicabile. Vi ricordo che nel 1870, appena i piemontesi presero Roma, ci fu una piena straordinaria. Questa piena straordinaria, di cui abbiamo appunto la solita notizia dei livelli, molto probabilmente, per non dire quasi certamente, fu creata dai mulini ad acqua che esistevano sul Tevere, che furono strappati dai loro ormeggi, erano strutture imponenti, andarono ad arrestarsi sotto i quattro ponti, anzi tre, perché uno era Ponte Milvio, che esistevano all'epoca a Roma. Quindi questo, diciamo, nella città, anche se possibile, al di là della soglia dell'isola Tiberina, sarebbe opportuno di no. Io mi fermerei, ordine di grandezza, euro, per dare un'idea, cioè dove ci sia, potrebbe essere anche la Fiera di Roma, se esistesse, e questo è però in progetto, una mobilità su ferro, che chiaramente poi sia la penetrazione in città. Se dobbiamo rimettere un'altra volta il camion, no. Sì, bene. Tout le monde est satisfait des réponses? Non, nous allons donc... Merci beaucoup. Encore une fois, merci. Oui. Et nous allons maintenant entendre Emilio Martin et Lazzaro Lagostena de l'université de Cadix qui vont nous parler, alors je ne me risquerai pas à dire le titre en espagnol, mais qui va nous parler de l'estuaire du Guadalquivir, et en particulier qui vont comparer deux contextes historiques, un d'époque romaine et un du Moyen-Âge. Muchas gracias. Compartiremos la presentación. Intentaremos ajustarnos al tiempo previsto entre los dos. Las intervenciones anteriores del doctor Menantó y de la doctora Bestué pues nos han ilustrado sobre el contexto geográfico del que estamos tratando. Por lo tanto, me ahorra volver sobre ello, ¿no? Pero sí hay algunos elementos que me gustaría señalar. Estamos tratando de este espacio, lógicamente, la desembocadura en sentido